Allora, sulle note di Aretha Franklin, che ha accompagnato questo pomeriggio, inizia una nuova puntata di Trasformazioni Femministe. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici che sono sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e che ascoltano il martedì autogestito da femministe e lesbiche. E allora, dicevo, questa è Trasformazioni Femministe, un ciclo di trasmissioni che comincia oggi il suo secondo anno e che per quest'anno è curata da Che Spazio, per una ricerca queer e postcoloniale. Che Spazio è un gruppo di ricerca azione femminista che ha scelto di prediligere una prospettiva intersezionale. Ci interessano quindi le intersezioni tra le pratiche e le riflessioni queer e postcoloniali, perché ci permettono di comprendere gli intrecci tra sessismo e razzismo. Che Spazio è nato inizialmente per autogestire uno spazio, appunto, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, ma da circa un anno ha scelto di rinunciare alla stanzialità di quello spazio per muoversi invece in diversi spazi politici autogestiti in questa città e per entrare in contatto con altre esperienze collettive. E da qui viene quindi anche il nostro desiderio di partecipare attivamente al martedì di Radio Onda Rossa. Quello che vorremmo fare in questo spazio radiofonico è mettere a disposizione dei momenti di incontro, di riflessione e di sperimentazione sulle pratiche femministe. Vogliamo riflettere sulle potenzialità trasformatrici di queste pratiche femministe e sulle loro diverse declinazioni. Quest'anno quindi Che Spazio propone un nuovo ciclo di trasformazioni femministe, un ciclo interamente dedicato alle pratiche femministe. Le trasmissioni andranno in onda un martedì al mese, dalle 20:15 alle 21:15. Ragionare sulle pratiche femministe speriamo sia un'occasione per produrre sinergie tra singoli, singole, gruppi. La prima tappa è stato in qualche modo l'incontro che abbiamo organizzato il 9 ottobre alla SNIA, nell'ambito del Festival della Parola Logos. In quell'occasione ci siamo confrontate sul tempo della militanza femminista. Ci siamo confrontate insieme a diversi collettivi come il 22, F29, Dalia, e insieme abbiamo ragionato su come declinare l'esperienza del tempo tra tempo di lavoro, tempo di cura e militanza femminista. E anche qui in radio inviteremo diverse interlocutrici con cui confrontarci sulle diverse pratiche che ognuno ha scelto per la propria militanza femminista. Oggi è 25 novembre, è la giornata contro la violenza degli uomini sulle donne e quindi non possiamo se non parlare delle pratiche femministe messe in atto dalle donne per reagire alla violenza maschile. E quindi adesso facciamo una breve pausa musicale, una selezione per questa sera dedicata appunto tutta a pezzi contro la violenza sulle donne, per poi entrare nel vivo degli argomenti della puntata di oggi di Trasformazioni Femministe. I think you've seen me before. If you hear something late at night, A Roma nel 1976 ci fu la prima passeggiata contro la violenza contro le donne. Scesero in piazza 20.000 donne che invasero le strade al grido di "Riprendiamoci la notte", a pochi mesi dal processo per il massacro del Circeo. E quindi la manifestazione che si svolge oggi per le strade del Pigneto riprende appunto questa pratica femminista di pratica che consiste appunto nel riprendersi le strade per le donne. E quindi non potevamo non cominciare questa trasmissione dedicata appunto alle pratiche femministe contro la violenza sulle donne ricordando la grande manifestazione del 25 novembre del 2007 che si svolse a Roma appunto subito dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani. Ecco, quello che volevamo ricordare è che in quell'occasione, nel 2007, la violenza contro le donne diventa un tema, anche una priorità, un elemento di convergenza e di aggregazione per l'eterogeneità del movimento femminista. Infatti si costituisce una rete nazionale sommosse a cui partecipano collettivi di femministe lesbiche che sono attive in tutta Italia. Allora, quello che vorremmo fare noi stasera da questi microfoni è provare a ragionare su cosa è cambiato, che cosa è rimasto uguale a partire dal 2007. Insomma, questa domanda ci sembra necessaria per riflettere, per comprendere le resistenze anche che esistono sulle lotte femministe contro la violenza maschile sulle donne, sia in Italia che nel mondo, e anche per capire le intersezioni tra sessismo e razzismo, che è appunto una tematica che noi, a cui noi siamo molto attente. L'esigenza che si sentì fortissima nel 2007 fu il fatto di volersi contrapporre in maniera chiara ai discorsi pubblici che strumentalizzavano la violenza sulle donne in chiave razzista, xenofoba e securitaria. E allora coniammo uno slogan. Lo slogan era: la violenza sulle donne non ha passaporto. Volevamo con questo slogan ribadire che in tutte le culture, nessuna esclusa, gli uomini opprimono le donne fino ad ucciderle. E quindi era impossibile usare la violenza contro le donne per giustificare politiche razziste. Nessuna politica razzista può essere agita in nome delle donne. Però allo stesso tempo volevamo sottolineare, ecco, oggi anche alla luce dei dibattiti e delle pratiche che si sono succedute a quella grande manifestazione del 2007, ecco, volevamo sottolineare che allo stesso tempo non vogliamo nemmeno riprodurre un atteggiamento di falso relativismo culturale, uno di quegli atteggiamenti che giustifica le violenze quando sono agite da persone che appartengono ad altre culture, ad altre nazioni. E quindi ci tenevamo a ribadire che appunto la violenza contro le donne non si può giustificare facendo riferimento a tradizioni culturali o religiose diverse. E sappiamo anche che porre questo nodo è difficile proprio perché la violenza contro le donne viene utilizzata in maniera strumentale in tutti i discorsi pubblici, non solo quelli appunto delle istituzioni, ma a volte anche nei discorsi femministi sulla violenza. E invece noi vogliamo rivendicare oggi la nostra autonomia a nominare la violenza contro le donne in qualsiasi contesto sociale o culturale essa avvenga. Ma c'era un'altra questione che nel 2007 assunse un'importanza fondamentale per il movimento. Bisognava ribadire che la maggioranza delle violenze sessuali e di tutte le forme di violenza contro le donne avvengono in realtà dentro le mura domestiche. È per questo che lo slogan fu anche "L'assassino ha le chiavi di casa". Infatti, oltre il 90% delle violenze contro le donne sono agite da partner, mariti, fidanzati. La notizia di oggi è infatti che una ragazza ha rifiutato di prendere domicilio presso la casa del padre e del fratello che da anni le facevano subire le loro molestie e per questa ragione rischia l'espulsione dal nostro paese. Sarebbe stato quindi fondamentale parlare oggi anche dei centri antiviolenza, in particolare di quelli autogestiti, ma a questo dedicheremo una trasmissione interamente dedicata a questo tema e appunto alle pratiche che le donne, le femministe e le lesbiche mettono in atto, anche appunto sostenendo le donne che subiscono violenza, no? Con i centri antiviolenza autogestiti, che sono un'eredità delle lotte femministe degli anni 70. Adesso invece proveremo a concentrarci su un altro aspetto. L'interrogativo infatti è: com'è vissuta la violenza contro le donne dalle istituzioni e nelle istituzioni? Va bene, a questa domanda cercheremo di rispondere tra poco con una corrispondenza in diretta, ma adesso facciamo un'altra breve pausa musicale. Stop it, Daddy. Daddy, stop it now. I'm going to tell on you now. Oh, Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Every day I wonder why my daddy had to be the one to take away my innocence. Oh, sometimes I wanna die. Allora, sempre per la nostra selezione di pezzi di donne contro la violenza, questa è Queen Africa con Daddy Don't Touch Me, che è appunto un brano che parla proprio della violenza all'interno delle mura domestiche, la violenza agita da un padre sulla propria figlia. Stop him from destroying my future. Believe me, he's behaving like a creature. Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. To all your mothers out there, give a listening ear. Pay attention, even if the man a pastor. You have to make sure before you trust him with your daughter. Plus him will even try if you take your son as brother. Watch if you dunk him with some dirty water. You can't hide no more, no, you have to meet your karma. If you know say it's a go on and turn a blind eye, then your judgment a go pile up out a mile high. Get suicidal if you think it a go save you. Because me sure say you not go get fi see the savior. Me just can't find a name for your behavior. It's a lucky thing we got a nosy neighbor. Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. When you feel like giving up, just shake it off and live it up. The most I will deliver you. Can't jump the rope if you not try. So wipe that tears there from your eye. Get the wings of confidence to make you fly. Tribulations are just to make you stronger. Love yourself and it will help you forget over. Any flesh hurt, a liquor youth will never prosper. I'm passing on the message from the master. Every day I wonder why my daddy had to be the one to take away my innocence. Oh, sometimes I wanna die. It feels like no one cares for me, and it's evident that something must be wrong with me. I'm not as happy as I seem to be. The long showers I take don't wash away the memories. Why do I have to face these tragedies? We go through struggles in life. I'm aware to have my daddy touching me. That's just not fair. Stop him from destroying my future. Believe me, he's behaving like a creature. Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Allora, come anticipavamo poco fa, siamo in collegamento telefonico con Alessandra Gribaldo, che ha condotto una ricerca che ci sembrava interessante affrontare in questa trasmissione. Innanzitutto ve la presento. Ciao Alessandra, ci senti? Ciao, eccoci. Ok, benissimo, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, Alessandra Gribaldo, intanto vi dicevo, insegna antropologia della cultura contemporanea all'Università di Modena e Reggio Emilia, si è occupata di genere, tecnologie riproduttive, fecondità, parentela, femminismo e visualità e violenza nelle relazioni di intimità. Attualmente si occupa in particolare di migrazione e scelte riproduttive, e quindi sono tutti temi che a noi interessano molto. E insomma, questa è la prima volta che ti sentiamo, Alessandra, ma speriamo di avere anche altre occasioni in futuro. Volentieri. Ciao Alessandra. Ciao. Ciao, senti, noi volevamo in particolare chiederti qualcosa sulla ricerca che hai fatto sulle donne che subiscono violenza ma che decidono di reagire contro l'autore della violenza che hanno subito, e anche di affrontare le dinamiche del processo. È proprio su questo che volevamo sentire tu che cosa hai da dire sulle dinamiche che si svolgono in aula, e in particolare su come la donna che ha subito violenza le vive. Certo, guarda, vi posso raccontare questa esperienza, che è un'esperienza di ricerca che è stata fatta tra il 2010 e il 2011, e che è una ricerca sulla violenza nelle relazioni di intimità, la violenza degli uomini contro le donne nelle relazioni di intimità, ed era una violenza che ed era una ricerca che in particolare si come dire si interessava del percorso giudiziario, quindi proprio della relazione con gli aspetti legali della violenza alle donne. E è una linea di finanziamento d'aste, no? una linea di finanziamento europea, e che si chiamava proprio Why doesn't she press charge, cioè perché lei non denuncia. Questa ricerca, che poi era una ricerca europea, quindi aveva i partner Romania, Spagna, Regno Unito, aveva in Italia in particolare due posti, che erano Catania e Bologna. Io lavoravo a Bologna, in particolare mi è stato chiesto di fare un lavoro etnografico, tra virgolette, no? Di osservazione proprio dentro le aule, per capire che cosa succede durante i processi, perché questa è una cosa particolarmente interessante che fino adesso pochi avevano fatto, no? Andare proprio a vedere quali sono le dinamiche in atto, no? Durante le sedute in aula. E questo anche su la direzione di questa ricerca di Giulia Creazzo, che è una criminologa che si occupa da anni di queste tematiche, e questa decisione è stata presa anche perché la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna aveva suggerito proprio questo, no? Di andare a vedere che cosa succede lì, perché effettivamente quello, no? Il momento della denuncia e poi il momento dell'udienza e del processo sono momenti particolarmente delicati, no? Certo. E quindi siamo andati proprio a vedere questo. E le cose che emergono, vi posso raccontare brevemente che le cose che emergono sono, da una parte, la prima cosa che possiamo dire è che c'è quell'elemento di, come si può dire, di banalizzazione, no? Di trivializzazione della violenza, che è qualcosa che per certi versi uno ci si aspetta anche, no? Perché fa parte di quella, diciamo, cultura, no? Che banalizza la violenza delle donne, che conosciamo bene in Italia, e quindi c'è a che vedere anche con un linguaggio, no? Un linguaggio che è cieco rispetto al genere, per cui si tende a utilizzare, naturalmente da parte soprattutto della difesa degli imputati, no? Si tende a utilizzare non so, l'impersonale, per cui sono volate degli schiaffi, si tende a sostituire, no, il conflitto, la violenza con l'espressione baruffa, guaio, litigio, no? Questo è qualcosa che in qualche modo, come dire, ci aspettiamo anche, no, in contesti di processuali. Quello che meno ci si aspetta forse è che effettivamente all'interno di questi contesti ci sia una sorta di capovolgimento, no? Perché effettivamente l'imputato è molto spesso contumace, e invece al centro proprio delle dinamiche processuali è messa la donna che testimonia, la donna che ha subito violenza, e in particolare è centrale la questione della sua credibilità, no? Perché il 572 è un reato particolare, un reato di maltrattamento in famiglia che è, come dire, per certi versi dà una grande centralità alla parola della donna, che anche da sola, no? Può effettivamente portare all'incriminazione, no? del partner, e però allo stesso tempo, come dire, tutto il processo ruota intorno alla costruzione della sua credibilità, no? Quindi effettivamente è un'esperienza, come potete immaginare, piuttosto pesante per una donna che deve andare a ricordare e narrare tutta una serie di questioni che riguardano la sua intimità e la relazione con il suo ex partner, in un contesto effettivamente in cui spesso sono passati degli anni, possono passare 3-4 anni, quindi anche molto tempo, e in contesti in cui spesso si è cercato di ricostruire qualcos'altro, no? Quindi di separarsi da quel momento. Si spera, certo, il tentativo dovrebbe essere quello. Sì, esatto, e quindi la cosa che è particolarmente problematica in questi contesti, che abbiamo notato, è proprio che intanto il 572 per essere attestato bisogna verificare proprio la sua continuità nel tempo, quindi quante volte è successo qualcosa, no? E quindi necessariamente si chiede alla teste, alla donna che ha subito violenza, si chiede effettivamente di andare a raccontare con esattezza, il più possibile esattamente, tutti quegli atti che hanno portato poi alla denuncia. Spesso la denuncia riguarda, come sappiamo, no, l'ultimo atto, no? Però effettivamente ci sono tutta una serie di elementi che devono essere ripercorsi, ed è molto complicato farlo, no? Come potete immaginare, quindi molto spesso sia il giudice che il PM a un certo punto si trovano quasi, come dire, a operare una sorta di finzione, no? Per cui dicono allora facciamo che si tratta di due volte a settimana, una volta al mese, cioè bisogna in qualche modo mettere, diciamo, per iscritto, certificare effettivamente una continuità nel tempo, cosa che è particolarmente complicata, potete immaginare, no? Da da dire in un contesto, no? Da ricordare, da certificare in qualche certo, modo in visto, questi contesti. Infatti nella, insomma, nei risultati che tu hai pubblicato della ricerca riportavi proprio alcuni di questi dialoghi in cui appunto giudice e pubblico ministero incalzano la donna che ha denunciato, che in qualche modo si confonde e ha difficoltà a stabilire proprio questa continuità, questa reiterazione, no? Del sì, che del se reato. Vogliamo è anche banale, no? E però quello che forse stupisce è che a volte i giudici non si rendano conto di quanto, no? È come dire, è complicato e quanto non sia in fondo per nulla scandaloso il fatto che non si ricordi esattamente, no? Ci sono alcuni giudici che dicono: ah, ma com'è possibile che lei non ricorda qualcosa che ha segnato la sua vita? Eppure questo, come dire, è assolutamente per certi versi beh, quasi, no? Insomma, evidente che si cerchi di dimenticare, di andare avanti, e insomma fatti così traumatici insomma non bisogna avere nozioni di psicologia per capire che si cerca di dimenticarli più velocemente possibile. In qualche modo la testimonianza e le richieste della Corte viaggiano su binari paralleli, non si incontrano mai, per cui per certi versi anche nelle migliori intenzioni, no, a volte il PM e il giudice cercano in qualche modo di venire incontro a qualcosa che strutturalmente in qualche modo non si presta ad essere, come dire, ad essere veramente quell'elemento sul quale si basa poi, no, tutta l'incriminazione, che è la testimonianza della donna, perché poi come possiamo immaginare è una testimonianza che ha come dire, tutta una serie di modalità che sono i silenzi, che sono il pianto, che sono modalità anche emotive, se vogliamo, che con difficoltà vengono fatte rientrare all'interno, no, di un protocollo, se vogliamo, quindi effettivamente molto, molto complicato. E poi c'è questa richiesta in qualche modo, no? Abbiamo intervistato anche giudici, PM, che a un certo punto dicono: beh, il problema della credibilità c'è effettivamente, non bisogna assolutamente eliminare la, come dire, il sospetto, la possibilità che ci sia una sorta di manipolazione, no? Per cui effettivamente questa richiesta ci deve essere necessariamente, quindi si scivola spesso, no, dalla domanda banale chi ha fatto cosa a qualcun altro e con quali intenzioni, si scivola su perché è stato fatto, per cui la donna in qualche modo deve parlare per, no, per l'imputato, peraltro spesso assente, quindi scusami, deve in qualche modo dire per quale motivo questo è successo, no? Quindi è un po' paradossale, se vogliamo, no? Deve incarnare in fondo, no, una sorta di confessione dell'imputato con l'imputato assente e contumace, e deve in qualche modo giustificare i comportamenti di lui, no? E poi quindi l'ulteriore scivolamento è chi sei tu, no? Perché non l'hai lasciato? Questa è la domanda che non viene esplicitamente formulata, ma che è sempre in qualche modo sotto traccia, no, in questi contesti. Ma quindi con tutto esperienza, ripeto che molto spesso sia giudici che PM come dire hanno naturalmente, no, si vede che effettivamente fanno uno sforzo proprio, no, per andare a, come dire, a venire incontro, no, alle modalità come dire, non ortodosse di queste testimonianze, e dall'altra parte però si scontrano con una problematica che è quasi strutturale effettivamente, no? E quindi ma secondo te, Alessandra, in queste dinamiche che tu stai descrivendo c'è comunque spazio per l'autodeterminazione delle donne? Ma quello senz'altro è vero che in questi contesti le strategie possono essere tante, ci sono le donne che rispondono semplicemente come degli automi senza farsi scappare neanche una lacrima, ci sono donne che urlano, donne che piangono, ci sono donne che decidono a un certo punto, no, di prendere la parola in maniera diversa durante il processo, però quello che posso dire è che la strategia più sensata senz'altro è quella, come dire, che non è presa da sola, no? La decisione che non è presa da sola, la casa delle donne in questo senso veramente fornisce un servizio che è fondamentale, cioè attraverso l'avvocato di parte civile, attraverso gli avvocati della casa delle donne ci si prepara a un'evenienza che difficilmente si riesce a prevedere, ci sono molte donne che sono scandalizzate giustamente, no? di finire come dire, ad essere delle al centro, no, di domande incrociate, eppure è così, e quindi questo in qualche modo deve, come dire, essere anche la testimonianza deve essere in qualche modo elaborata anche attraverso, no, il contatto con le operatrici che lavorano su questi temi da tantissimo tempo, che sono esattamente loro che sanno che cosa succede durante il processo, sono loro che possono dire: guardate, qui vi troverete davanti a questo, questo e questo, cioè le difese sono molto aggressive, ma anche la, come dire, la logica processuale è una logica molto violenta, c'è una, come dire, una doppia violenza che si aggiunge alla violenza già subita in qualche modo, no? Questo sembra confermare l'importanza dei centri antiviolenza e del loro fondamentale ruolo per aiutare le donne che vogliono reagire alla violenza che subiscono dagli uomini. Con questo assolutamente, Alessandra... io non conosco bene gli altri centri, ma il centro della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna ha una posizione eccezionale da questo punto di vista, fanno veramente un gran lavoro, riescono a lavorare in rete, riescono veramente ad avere una, anche una grande apertura, una grande capacità di comprendere situazioni anche differenziate. Il 572 tra l'altro è particolare perché è un reato che è procedibile d'ufficio, no? Per cui anche se tu non hai denunciato, ma ho denunciato i vicini di casa, o se tu hai ritirato la denuncia, il processo va avanti. E quindi da questo punto di vista avere, come dire, un avvocato che ti sta vicino è decisivo. Certo, soprattutto se è un'avvocata femminista, meglio ancora, no? Meglio ancora, su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio proprio per tutta una serie di motivi che sono squisitamente politici e che sono anche, come dire, di assoluta competenza. Certo, competenze che appunto le avvocate femministe e le operatrici dei centri antiviolenza hanno sviluppato negli anni, proprio sostenendo le donne che denunciano la violenza, e questo credo che riconfermi un po' quello che pensavamo preparando questa trasmissione, che cioè reagire alla violenza si può, ma assolutamente va fatto in maniera collettiva, no? Assolutamente, quello... perché le chiavi di lettura si sviluppano in termini collettivi, cioè evidente, come dire, storicamente stratificati e collettivi, quello è assolutamente evidente. Benissimo, allora Alessandra, noi per ora ti ringraziamo per questo contributo e ora insomma andiamo avanti con la trasmissione, perché poi vorremmo sentire anche le compagne che sono in piazza alla passeggiata contro la violenza, che è partita dal quartiere di Tor Pignattara per arrivare all'isola pedonale del Pigneto e che è in corso proprio mentre noi siamo qui in diretta. Quindi per ora ti salutiamo, ti ringraziamo, ma insomma restiamo in contatto e insomma riparleremo del tuo lavoro, perché molto ci sembra volentieri. Molto utile. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. Last year, Valentine's Day, you would want me to say, babe, I love you, yo, he's babe, lying. I swear, held you when you were sick, even the whole time I think to myself, this isn't fair. What is this I see? No. You don't come home to me. Oh, no. Well, you don't come home to me. Man. Can't deal, can't bear. You keep telling me lies, but to your surprise, look, I found her red coat and your bitch caught out there. Truck to flames and watch it blow up on me. How you gonna see it now? So far from sincere, I love you. Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is this I see? I don't believe you this. Don't come home to me. E questa che stiamo ascoltando è Kelisk con Catch Out There. Siete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Trasformazioni Femministe all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ancora una breve pausa musicale per poi continuare a parlare di come le donne reagiscono alla violenza maschile. So vulgar, not me, why the hell her? Look, she dresses, look at her, a mess. What do you see? I don't know. It's not all about cash. Hell no. Know how much you flash. How I dress is a reflection of me. What is this I see? You don't come home to me. Well, you don't come home to me. Can't deal, can't bear. Told you I won't. You keep telling me lies, but to your surprise, look, I got something for y'all. Since you're caught out there, Allora, come abbiamo detto, la maggioranza delle forme di violenza contro le donne avviene dentro le mura domestiche, ma dentro le mura di casa le donne, sia quelle native che quelle migranti, svolgono ancora tutt'oggi la maggioranza delle responsabilità del lavoro di cura e del lavoro domestico. A causa anche della pressoché inesistenza di un stato sociale degno di questo nome in Italia, molta e gran parte del lavoro di cura e del lavoro domestico, per chi può perlomeno, viene esternalizzato alle donne migranti. Bisogna tenere presente che la maggioranza delle migranti in Italia svolge il lavoro domestico, è praticamente pressoché l'unico lavoro che le migranti svolgono sul nostro, presso le nostre case. La condizione delle donne migranti, lavoratrici domestiche, è particolarmente emblematica della intersezione tra genere, classe e razza. La discriminazione multipla che subiscono le donne migranti, lavoratrici domestiche, è talmente eclatante nel nostro paese che è ancora l'esempio per eccellenza di come ancora in Italia siamo ben lontani da una qualunque attuazione della Convenzione contro ogni discriminazione nei confronti delle donne. Bisogna tenere presente che soprattutto le donne che non hanno i documenti in regola con le norme sul permesso di soggiorno si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità. Il ricatto perennemente presente rispetto alla possibilità di avere un permesso di soggiorno in regola pone queste donne spesso nella condizione di subire violenza all'interno delle nostre mura domestiche. È un'altra condizione di particolare vulnerabilità alla violenza è quella delle donne migranti che sono rinchiuse nei CIE, i centri di identificazione ed espulsione per migranti senza documenti. Infatti le molestie e i ricatti sessuali nei confronti delle donne o delle transessuali recluse nei CIE sono all'ordine del giorno. Sappiamo bene come ogni necessità legata alla loro sopravvivenza quotidiana, dal pacchetto di sigarette alla scheda telefonica, può essere soddisfatta in cambio di una prestazione sessuale fornita ai rappresentanti delle forze dell'ordine o agli operatori degli enti gestori.

Quindi non solo le donne sono protagoniste delle migrazioni, ma tra queste e molte di loro sono donne che reagiscono in piena autonomia e con forte determinazione per abbandonare rapporti tra i sessi che non vogliono assolutamente più vivere. Sono donne che rompono le regole di genere sottraendosi o perlomeno cercando di sottrarsi alla famiglia e alle norme sulla condotta richiesta alle donne. E quindi, per quanto l'esperienza di queste donne rifugiate che arrivano in Italia o in Europa sia un'esperienza decisamente traumatica, da parte loro c'è una spinta verso l'autonomia. L'autonomia, appunto, l'autodeterminazione è ciò che impedisce loro di trasformarsi in vittime, ma invece permette loro di essere dei soggetti che si autodeterminano, e questo era l'aspetto che noi volevamo sottolineare, perché nella scelta di un percorso migratorio autonomo e indipendente già c'è una consapevolezza che, insomma, è importante valorizzare. Bisogna considerare che questa loro consapevolezza è particolarmente significativa e quasi ed esemplare, perché scappano da persecuzioni che possono essere sicuramente di genere, ma anche di identità sessuale o per orientamento sessuale. Bisogna tener conto che con difficoltà riescono a far considerare queste forme di persecuzione ai fini dell'ottenimento dello status di rifugiato in Italia. Ma scelgono di farlo, lo fanno con determinazione, affrontano molti rischi di violenza durante la loro fuga e al loro arrivo in Italia. Spesso lo fanno incinta, spesso lo fanno con bambini piccoli, ma sono sicuramente una parte molto molto rilevante degli arrivi in Italia. E quindi, parlando anche dell'esperienza delle donne migranti e rifugiate che arrivano in Europa, che attraversano il Mediterraneo, volevamo sottolineare come, appunto, in un discorso sulla violenza contro le donne non possiamo evitare di intrecciare, appunto, le forme di oppressione che sono basate non solo sul genere ma anche sulla razza e l'etnicità. Sappiamo infatti che molto spesso, quando si parla di violenza sulle donne, specie in occasioni come quelle di questa giornata internazionale contro la violenza, le pagine dei giornali sono piene di notizie che riguardano le violenze, e molto spesso le violenze che fanno più notizia sono quelle agite da immigrati su donne italiane. Infatti negli anni passati abbiamo assistito alla costruzione di un vero e proprio mito dello straniero stupratore, che è servito, appunto, a giustificare politiche razziste, xenofobe e securitarie. Noi invece in questa trasmissione volevamo sottolineare quanto la violenza sia agita da tutti i maschi, sia nativi che immigrati, e che, appunto, soprattutto le donne che subiscono violenza sono sia native che immigrate. E quindi qualsiasi pratica politica femminista che si proponga di reagire alla violenza deve necessariamente tenere conto delle differenze tra le donne e della possibilità di costruire delle alleanze tra donne che hanno diversi posizionamenti in termini di genere, razza e classe. E adesso, tra poco, subito dopo la pausa musicale, ci metteremo direttamente in contatto con la piazza, che ormai sarà arrivata al Pigneto, per sapere come sta andando questa giornata romana di mobilitazione contro la violenza sulle donne da parte degli uomini. E prima di farlo, però, ancora un altro brano musicale di una donna che racconta come ha reagito alla violenza, appunto, vendicandosi dell'uomo che le ha fatto del male. Questa è Rihanna, Man Down. Thank you. can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing. I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart with him. I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. What you expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. I took his heart with. I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Mama, mama, mama, I just shut a man down in Central Station. Trigger, pull the trigger, boom. And in a nigga life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it from you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, rum, papa, bum, rum, papa, bum, rum, papa, bum. Me say one man down. Oh, me say rum, papa, bum, rum, papa, bum, rum, papa, bum. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh, Lord of mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh, mama, mama, mama, I just shut a man down in Central Station. Allora, siamo in collegamento con la piazza, c'è cioè la nostra corrispondente speciale, specialissima. Ci sentite? Ciao! Ciao! Ci sentite? Benissimo! Allora, come va? Com'è la piazza? Sta andando bene, ci siamo appena fermate nella piazza dei Giardini per stare in Uccitelli e c'è stata una performance di F9 sulle guerriere. Ah! E insomma, come sta andando la passeggiata? C'è partecipazione? Quante compagne ci sono indicativamente? Diciamo, c'è un bel clima, molto allegro, c'è molta musica e varie performance lungo il percorso. Ce n'è stata anche un'altra davanti al consultorio di Piazza dei Condottieri, leggendo delle lettere da Kobane. però ora volevo chiedere a Viola di F9 se ci raccontava un po' come è nato il percorso e anche il perché della performance che hanno appena fatto. Ciao, mi Ciao, sentite? Ciao Viola. Sì, ciao. Sì, ti sentiamo forte. Che bello sentirvi. Allora, mi sento molto poco, quindi se fermatemi con un urlo in caso. non ci sarà bisogno. Siamo qua per ascoltarti, vai. Allora, niente, il corteo la passeggiata è partita un paio d'orette fa, abbiamo già fatto una fermata al consultorio dove le donne del Centro Italia hanno letto delle lettere da Kobane. Qui adesso invece a Piazza Nucitelli Persiani abbiamo il collettivo F9 ha fatto una performance di Tai Chi leggendo una lettura su che cosa vuol dire essere guerriere e dov'è la forza. Poi più avanti proseguiremo e andremo verso il ponte che collega da una parte all'altra da una parte la Casilina e dall'altra l'isola pedonale e ci sarà appenderemo una mappa in grandi dimensioni del Pigneto e sopra c'è scritto è un invito a segnare tutti i luoghi in cui ci sentiamo bene a nostro agio e già abbiamo messo sulla leggenda queste la Pisacane e il consultorio. Allora, ma vuoi anche dirci qualcosa sul percorso che ha portato alla scelta di fare una passeggiata oggi lì tra Tor Pignattara e il Pigneto? Sì, dunque, il percorso è iniziato perché alcune donne si sono riunite e hanno cominciato a pensare, insomma, più che a pensare, è venuta subito fuori l'idea di stare qui, come siamo spesso da abitanti o da lavoratrici, oppure soltanto per uscire, eccetera, però di starci tutte insieme. Di starci con i nostri corpi la giornata contro la violenza, quindi di in qualche modo utilizzare questa giornata per stare qui e starci anche insieme e tutte intere, per dire che la violenza è una violenza che ancora è feroce, esattamente come nel 76 quando le donne sono scese per la prima volta in piazza con all'urlo di riprendiamoci la notte, per dire che è ancora feroce e che è in casa, spesso è domestica, quasi sempre è domestica e quando è per strada le misure che vengono adottate dalle varie ordinanze, le varie DDL sono sempre misure di ordine securitario e militare e non ascoltano, oltre a essere dannose non sono mai in relazione con quello che in realtà le donne di cui le donne hanno bisogno, scusatemi. È chiarissimo, non ti preoccupare. E proprio per questo volevamo chiedere ad una compagna delle Cagne che cosa, come le femministe, le lesbiche, i trans queer rispondono alla violenza contro le donne, quali sono le strategie che proprio si possono mettere in atto per reagire alla violenza. Ciao, buonasera a tutti e tutte. Ciao. Ciao. Vabbè, la modalità classica che noi utilizziamo e che amiamo di più è quella dell'auto-organizzazione, quindi di incontrarsi e di riprendersi le strade. Magari posso dire anche qualcosa su come proseguirà nella tappa la passeggiata, perché per esempio ci si fermerà davanti a una farmacia che è stata sanzionata qualche mese fa, mi sembra l'8 marzo, però non mi voglio sbagliare, perché è obiettrice di coscienza e sta nell'isola pedonale del Pigneto e quindi ci sarà tutto un intervento sull'obiezione di coscienza e su quelle misure che quotidianamente vengono disposte per controllare i nostri corpi attraverso la logica della maternità obbligatoria e la logica della buona madre. E questa mattina tra l'altro c'è stata un'azione al policlinico perché il repartino è stato chiuso perché l'ultimo medico che faceva gli interventi è andato in pensione, quindi c'è una saturazione di questa roba e perché i movimenti per la vita ormai agiscono così, quindi in modo progressivo, e quello che dobbiamo fare noi appunto è auto-organizzarci e riandare nei posti che ci appartengono e che che servono per la nostra salute, per la nostra autonomia e per la nostra autodeterminazione. L'organizzazione è quello, è quello che ci vuole, e oggi è una giornata anche che funziona su questo, anche il fatto di attraversare il Pigneto, che con tutte le contraddizioni e tutte le derive securitarie, i discorsi che vengono fatti, viene attraversato dalle donne con un contenuto che è quello contro la violenza, che invece è molto chiaro e riesce a mettere al bando tutta una serie di discorsi retorici, populisti, razzisti di merda, perché è evidente che sulla violenza sulle donne, per esempio, non si scappa, nel senso che la violenza sulle donne la fanno gli uomini indipendentemente da qualsiasi appartenenza. È un discorso molto chiaro, e è anche lì, insomma, la forza delle donne di riuscire a stare nelle strade e ribadire dei concetti molto chiari, che poi riescono ad annullare tutta una serie di logiche di merda su cui si basa in questo momento la retorica politica. Certo, quindi va sempre bene ribadirlo, no? È importante che, appunto, non sono i decreti sulla sicurezza o i decreti contro il femminicidio che salvano le donne dalla violenza, ma appunto auto-organizzazione e autodeterminazione. Insomma, percorsi politici collettivi, no? Di femministe, lesbiche, trans, queer, l'abbiamo detto. E noi adesso, insomma, abbiamo poco tempo a disposizione, quindi non so se volete dirci altro su come proseguirà la passeggiata, o insomma se ci sono altri temi che volevate sottolineare prima di salutarci. Rapidamente vi diciamo semplicemente che poi, dopo la mappa, arriveremo all'isola pedonale, inizieremo a percorrere le stradine che sono sempre buie, e sprigioneremo delle lanterne di luce, anche per dire che forse banalmente a volte basta un pochino di illuminazione in più. Urleremo solidarietà, la compagna ci ha appena detto cosa succederà davanti alla farmacia, e poi arriveremo alla fine dell'isola pedonale, dove faremo delle letture su ogni chiunque vorrà potrà fare delle letture sulle parole delle donne che ci danno e ci hanno dato forza. Benissimo, è come se fossimo lì con voi, e soprattutto continuiamo a invitare chi ci ascolta a raggiungervi. Sì, raggiungiamo il corteo. Ciao. Ok, ciao. Buona passeggiata. Grazie a tutti. Ciao. E adesso non ci resta che lanciare una meravigliosa sigla conclusiva.